2040, il conto alla rovescia di una società che avanza verso il purismo della razza. Vedi cose scene, ste sceme, vedi oggi 2040, si mandano figli e figlie al troiame, banconote infame, figa in bocca di infame. 2041 è tornato lo stato puro, nazi, razzi, la gente si piglia, pazzi, pazzi si rinchiudono, la società seleziona, raziona, razionalismo funzionale, realismo monetario, eclettismo, nuovo organismo imperiale. Nel ghetto eroina e morfina per dimenticare il conto virtuale sulla popolazione. MTV, oggi 2041 si chiama NVTC, ossia nuova televisione di controllo e comando, e rap ipnotizza tutti. Su ordine e comando ci si inietta anello cromo istituzionale per non farsi contaminare, per sfuggire al protocollo di deneuralizzazione e cercare di sfuggire ci si spara neurosimulazioni in grado di ricostruire nel cervello un falso back memory virtuale. 2050, gli anarchici di Santa Mala sfociarono alla fine in una bomba nucleare ribelle. Vedi cose oscene, ste sceme, vedi oggi 2040, si mandano figli e figli al troiame, banconota infame, figa in bocca di infame. 2041 è tornato lo stato puro, nazi, razzi, la gente si piglia, pazzi, i pazzi si rinchiudono, la società seleziona, raziona, razionalismo funzionale, realismo monetario, elettivismo, nuovo organismo imperiale, nel ghetto eroina e morfina per dimenticare il conto virtuale sulla popolazione. MTV, oggi 2042 si chiama NTVC, ossia nuova televisione di controllo e comando. Il rap ipnotizza tutti, about system, su ordine e comando ci si inietta anedromorfina contenente contenente una sostanza per non farsi controllare, per sfuggire al protocollo di neuralizzazione, cercare ci si spara neutralizzatori in grado di registrare nel cervello un falso back memory virtuale. 2050, gli anarchici Santa Mala sganciano bomba atomica ribelle. Gli anarchici di Santa Mala sganciano bomba nucleare ribelle. E ribelle. Nel ghetto eroina e morfina per dimenticare il controllo virtuale sulla popolazione. Ci si inietta adrenomorfina per non farsi controllare, per sfuggire al protocollo di neuralizzazione, di sfuggire ci si spara neurosimulazioni in grado di ricostruire nel cervello un falso back memory virtuale. 2050, gli anarchici Santa Mala, bomba atomica ribelle, neurosimulazioni in grado di ricostruire nel cervello un falso back memory virtuale. 2050, gli anarchici Santa Mala, bomba atomica ribelle.